AVS Media Demo. AVS Media Demo. La tristezza adesso è andata via. Ha fatto posto all'allegria che esiste. AVS Media Demo. Ci sei tu nel mio mondo. Non importa come finirà la nostra storia, sai perché? AVS Media Demo. È solo una follia adesso che sei mia. Solo tu sai darmi fantastiche emozioni che creano in me un'armonia incredibile, perché quando sto AVS Media Demo. Solo quando sto con te il tempo passa e va, non andare via, oh no. AVS Media Demo. Dicono chi sei e non nascondono che tu vuoi solo la serenità nel tuo AVS Media Demo. Sono certo che conserverai le sensazioni splendide vissute con molta fantasia. AVS Media Demo. Gli attimi fuggenti, indimenticabili, che ti hanno ridato la felicità, la complicità che lega queste anime, la forza ti darà. AVS Media Demo. Non soffrire più. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Che creano in me un'armonia incredibile, perché quando sto con te, solo quando sto con te, il tempo passa e va, non andare via. AVS Media Demo.